9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, questo è lunedì 9 gennaio, buon San Giuliano, quindi a tutti i giuliani un augurio. Per alcuni di voi, non so, la maggioranza o meno, ma insomma per una buona dose di voi è anche il reingresso vero al lavoro dopo la lunga, troppo lunga parte di vacanza. Se fate così tante vacanze non va bene, perché bisogna lavorare di più, così vi metto tutti subito contro di me. E riprendiamo da oggi ancora un po' l'abitudine, poiché teniamo i doors, perché rimaniamo consapevoli del fatto di dover diffondere consapevolezza sulle difficoltà dell'euro. Cominciamo prima di arrivare al tema della puntata, che sarà la disobbedienza civile. Un minuto per un rapidissimo giro d'orizzonte su ciò che in questo fine settimana ci ha detto la stampa internazionale a conferma del fatto che dobbiamo tenere i doors. Appunto, perché vado a volo d'uccello questa volta per non farla troppo lunga, quindi non vi dico quasi tutte le cose che cito sono prese o dal Financial Times o dal Financial Times Deutschland, oppure alcune volte quelle greche da Katamerini, come lo sapete, e quelle tedesche o dal Bild am Sonntag o da Frankfurter Allgemeine. In sintesi, il Fondo Monetario non crederebbe più al piano della Troika europea per il salvataggio greco. In particolare il Fondo Monetario prevede un calo del PIL greco del 6% quest'anno, doppio rispetto alle previsioni ufficiali che abbiamo ripetuto fino a qualche settimana fa, e con un calo di PIL del 6%, quindi anche quest'anno come l'anno precedente, come nel 2011, non si va da nessuna parte, perché non si raggiungono gli obiettivi deficit debito sul PIL in Grecia. Dopodiché la conclusione, non dice il fondo, ma questo si riporta con fonti finanziarie su giornali tedeschi e giornali greci, è rispetto alla cosiddetta partecipazione privata al taglio dei capelli, all'haircut, cioè al vero e proprio semi-default pilotato previsto entro il 45-50 fino al 60% massimo dei titoli in scadenza greci, o si alza ulteriormente, ma questo contraddice il fatto che i tedeschi hanno detto che questa partecipazione privata al semi-default è stato un errore, non si deve più ripetere, oppure bisogna inevitabilmente mettere mano ancora più a soldi europei per il salvataggio greco. Però peccato che i tedeschi siano contrari anche a questo, e giustamente, riferisce la stampa tedesca. Nel frattempo il commissario Klaus Regling sta considerando un taglio al leverage dell'FSF, il fondo salva stati, perché non si riesce a ottenere un leverage, cioè una moltiplicazione delle sue risorse finanziarie al di là di quella della dotazione delle state, come quello auspicato. Quindi in realtà ci sono meno munizioni europee per il salvataggio, non più munizioni europee. Poi andiamo all'indebolimento del governo Merkel per via dello scandalo che coinvolge il presidente Christian Wolff, il capo dello Stato. Commenti sulla stampa tedesca su come si possa procedere. In realtà, da questo punto di vista, nessun paese europeo sta approfittando di questa vicenda interna, ecco, bisogna riconoscere. Né d'altra parte il prestigio della Merkel è più di tanto scosso, perché Christian Wolff è un altro dei suoi avversari interni di partito che risulta autoeliminatosi per propri errori dopo che la Merkel l'ha spinto avanti in posizioni di rilievo, un metodo un po' quello dei 10 piccoli indiani di Agatha Christie. Nicolas Sarkozy, spostiamoci in Francia. Nell'ultimo sondaggio sarebbe 2 punti sotto il suo sfidante François Hollande, e quindi a maggior ragione bisogna aspettarsi da Nicolas Sarkozy in queste prossime settimane un atteggiamento che diventa più vicino all'Italia, per farla in due parole, dopo l'incontro con Monti, cioè più vicino a richiedere un potenziamento di regole meno rigide per il patto di stabilità che si sta trattando al tavolo tecnico dell'attuazione dell'accordo della notte della Immacolata. Ecco, per il momento fermiamoci qua, per dire che ricordo a tutti che cosa ci aspetta nei prossimi mesi, visto che c'è l'aumento di Unicredit oggi, e come sapete Unicredit vale ormai quello che vale. Aspettatevi ancora in queste ore, vista la quantità di diritti di opzione che non vengono esercitati, una giornata secondo me che inizierà di nuovo col titolo in giù, poi vedremo se non risale, perché a un certo punto poi le mani forti inizieranno a comprare e vedremo alla fine dell'aumento di capitale quali nuovi soci forti ci sono al di là delle vecchie fondazioni in Unicredit. Ma vi ricordo che di solito obbligazioni bancarie che vanno in scadenza nel 2012 ce ne sono 725 miliardi di euro, primo trimestre 280 solo il primo trimestre, per capire qual è il rilievo del debito privato in scadenza bancario che si aggiunge a quello degli stati. Per l'Italia sola nel periodo gennaio-aprile abbiamo 160 miliardi di euro da rinnovare, quindi non si scherza per così dire. E vi ricordo che fino a questo momento gli acquisti totali della BCE di titoli pubblici portoghesi, spagnoli e italiani sono già ammontati a 211 miliardi di euro, quindi non peanuts, non noccioline, e diciamo che questa è un pochino la difficoltà complessiva di questo inizio anno, un inizio anno in cui l'economia americana va meglio delle attese. Avete visto un tonitruante mese di dicembre con più di 200.000 posti di lavoro creati. La mia previsione è che siamo in anno elettorale, si vota alla fine dell'anno gli Stati Uniti, daranno una mano sia la Fed che le serie storiche, per cui in anno preelettorale il PIL americano difficilmente va giù, tutti si danno da fare, le autorità pubbliche, per farla salire su. Resta il fatto che anche gli Stati Uniti, come sapete, hanno un debito pubblico costruito secondo criteri statistici molto più stretti, molto meno estesi e molto meno affidabili di quelli europei, che è di 15 mila miliardi di dollari, più il loro PIL, e quindi anche loro hanno poco da ridere. In tutto questo, siccome siamo reduci, e andiamo al tema della giornata, la disobbedienza civile, siamo reduci da giorni di bombardamento mediatico sui giornali, sulla televisione, la famosa visita fiscale, l'ispezione sul campo che l'Agenzia delle Entrate ha tenuto a Cortina nei giorni delle vacanze ha fatto alzare immediatamente la temperatura e si sono sentite tante cose, tante obiezioni. La mia obiezione di fondo non è nel merito di quell'operazione, il merito di quell'operazione mi sembra un successo da parte chi l'ha condotta, perché c'è una strategia in questo da parte dell'Agenzia delle Entrate, il suo capo, di toccare esattamente i nervi scoperti per far verificare al paese che effettivamente l'evasione è la bestia nera che le stime dicono, e che insomma lo Stato non dorme, perché tenta di fare tutto quello che ritiene opportuno fare e che leggi sempre nuove lo hanno messo in condizione di fare, per far toccare con mano poi a chi? Ai lavoratori dipendenti, a quelli che hanno il sostituto d'imposta, che in effetti c'è una bella fetta di paese che continua a non darsene per inteso. È una strategia non solo di successi concreti, visto che l'incasso da evasione sale anno dopo anno ed è salito dai governi di centro-sinistra anche sotto i governi di centro-destra, e a guidare, tante volte lo abbiamo detto, questo sforzo di rafforzamento e coordinamento sempre più efficace di poteri è Attilio Befera e la sua squadra, e i risultati sono venuti. Ma c'è anche una strategia di comunicazione, come ovvio che sia, una strategia di comunicazione, visto che il consenso alla politica fiscale è uno degli strumenti attraverso i quali si regge in piedi il fatto che altrimenti sarebbe incomprensibile come in una democrazia ad altissima spesa pubblica come la nostra, in realtà poi di proteste e rivolte fiscali non ce ne sono state, malgrado che c'è una pressione fiscale che è aumentata di 25 punti di PIL nell'arco di una generazione, in poco più di 20 anni, un vero elettroshock che non ha equivalenti in nessun paese avanzato. In nessun paese avanzato, infatti, l'aumento della pressione fiscale, che ha medie meno elevate della nostra, ma comunque consistenti, è stato così concentrato nel tempo. E capite che è come sottoporre un organismo vivo, l'economia di un paese è un organismo vivo in cui interagiscono milioni di individui, attori, imprese e così via, sottoposto in un'unità di tempo così ristretta a una scossa elettrica tanto potente, effettivamente ha delle reazioni, come tutti i comportamenti molto distorsivi, e 25 punti di PIL di pressione fiscale in più sono molto distorsivi in un'unità di tempo molto ristretta, comporta delle reazioni che sono un po' come quelle di un corpo umano che ficca le dita nella presa, allora, inevitabilmente tenta di sottrarsi. Chi tenta di sottrarsi dà una risposta poi all'evasione. Io non credo, ve l'ho detto mille volte, un'evasione che sia il DNA storico, il DNA atavico di un paese anomico, incivile. Credo invece che si spieghi con ragioni storiche di evoluzione del nostro ordinamento. Una di queste ve l'ho appena detto, ma insomma tante parole sono volate in questi giorni. Ciò che mi colpisce però è che in Italia poi le parole sono magari durissime, ci si insulta, la politica è una specie di curva sud, curva nord. Mi ha anche molto colpito, per esempio, e non positivamente, Vincenzo Visco, che, dalla quale mi aspettavo per esempio solidarietà da Attilio Befera e a un'agenzia delle entrate che tutto sommato ha messo in piedi lui nei suoi anni. E invece no, persino Visco ha detto che in questi anni di centrodestra l'agenzia delle entrate, che pure ha aumentato i suoi successi quantitativi, non ha praticamente fatto niente, perché sotto il centrodestra la lotta all'evasione non si è fatta, si faceva solo sotto di lui, ritornerà solo sotto di lui. Ecco, io su questo dibattito pubblico non voglio dire, però mi fa molto impressione, da una parte la durezza di questo atteggiamento curva sud e curva nord introiettato in questi 17 anni di bipolarismo, dall'altra il fatto che in concreto poi dal basso, al di là di assecondare questa sgangheratezza della politica efferata gli uni contro gli altri a parole, però dal basso quali sono poi i fenomeni veri che nella società italiana si creano di disobbedienza civile? Pochissimi. E voglio dire, tanto se pensiamo alle cose civilissime che si sono viste per esempio in paesi anglosassoni tipo Occupy, Wall Street e così via, dove appena si scendeva da un marciapiede interveniva la polizia perché lì si manifesta così, quindi tanto da parte di chi è antimercato, per essere chiari, tanto a maggior ragione da parte di chi, milioni di italiani, si trovano in uno Stato che cresce sempre nelle sue richieste, aspettative, si dà i poteri per entrarti nei conti, non ti concede neanche un barlume di quello che si concede a lui, perché nelle sue scadenze fiscali tu non puoi sgarrare, perché sennò scattano giustamente gli agi, gli interessi, eccetera. Lui invece a te ti aspetta anni per pagarti, quando ti paga. Ecco, allora, per essere chiari, sia da parte di chi è critico verso il mercato, il capitalismo, identifica in quello le origini di tutti i mali e crede per questo che le manovre recessive per tenere su in piedi l'euro siano l'espressione di un cupolo di potere finanziario di banchieri, da una parte, chi protesta vorrebbe protestare su quello, ma dall'altro anche chi avrebbe qualche buona ragione, secondo me, sacrosanta ragione di protestare contro uno Stato così asimmetricamente tirannico e rapinatore, e beh, in Italia non si vede né l'una né l'altra cosa. In Italia si sono viste per anni terribili cose di violenza armata, rossa e nera. Però la disobbedienza civile, parte ed espressione dell'evoluzione di un qualunque sistema di governo, perché l'evoluzione verso forme di tutela dei diritti delle persone è in pratica il percorso evolutivo degli ordinamenti pubblici di matrice giudaico-cristiana, per capirci, quindi da millenni, dall'Atene del V secolo al diritto romano e così via. Quello sembra che noi nella nostra democrazia italiana l'abbiamo smarrito. Questa cosa mi ha molto colpito, perché poi avevo letto un libro tempo fa che mi aveva molto sconfinferato da questo punto di vista, mi aveva stimolato a riflessione, a grattarmi la testa, perché sia la tradizione, diciamo, antagonista, sia quella liberale, in Italia è come se dormissero da questo punto di vista. Io non è che voglio risvegliare nessuna violenza, io dico la disobbedienza civile è quella legalitaria. Attenzione però che la disobbedienza civile legalitaria, secondo quello che stabiliscono i principi del diritto naturale, può arrivare fino al potere destituente del potere, perché poi le rivoluzioni liberali sono nate così, e bisogna un po' riflettere su come mai l'Italia sia così sedusa. Allora abbiamo con noi l'autore di questo libro, perché sono curioso di vedere che telefonate verranno nella seconda parte della trasmissione, di fronte ad alcune considerazioni che adesso io chiederò soprattutto a lui di fare. L'autore di questo libro è Raffaele Laudoni, che è una sinistra di ricerca all'Università di Bologna, che ha insegnato anche alla Columbia University di New York, e ha pubblicato un libro che è uscito più o meno un annetto fa, se non mi sbaglio, per Il Mulino, la collana Lessico della Politica, e questo libro si intitola appunto Disobbedienza, e vale tutti i 13,50 euro costa, perché sono una 180ina di pagine fitte piene di rimandi a testi, titoli e autori. È un vero e proprio Baedeker, un manualetto su come l'idea e la forma concreta della disobbedienza civile sia evoluta, coessenzialmente, intrinsecamente legata alla storia del nostro mondo occidentale dalla Grecia a oggi. Quindi grazie al, come lo devo chiamare, professore, non professore, assegnista, insomma, grazie a Raffaele Laudani. Allora, grazie a voi per l'invito. Mi può chiamare come crede, diciamo che da pochi giorni, da fine dicembre... Posso chiamarla professore? Ma se vuole, non lo sono, però insomma, in ogni caso, da pochi giorni sono uscito dal limbo del precariato e sono adesso un ricercatore universitario alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna. Va bene, allora, malgrado la Gelmini, voglio dire... Cioè, pare di, insomma, sono uno dei miracolati. È uno dei miracolati. Quindi la Gelmini quindi non era solo una legge di sterminio. No, adesso non parliamo della Gelmini. Se dobbiamo dirlo proprio così, in realtà io faccio questo mio posto da ricercatore, fa parte dei cosiddetti fondi Mussi, cioè l'ultima tornata dei fondi straordinari che aveva messo a disposizione il ministro Mussi, che poi sono l'ultima tornata è stata, come dire, poi implementata sotto il ministro Gelmini. Allora, andiamo ovviamente per flash, perché ovviamente noi dobbiamo considerare che a quest'ora la mattina noi non abbiamo un pubblico di studenti, abbiamo un pubblico di persone che lavorano, si spostano in macchina, eccetera, eccetera. Bisogna tentare di affascinare su questa cosa e non sembrare due matti completi su questa cosa. Ci proviamo. Allora, come mai nella Roma, diciamo, repubblicana, che si avviava alle guerre civili e così via, c'era nell'ordinamento previsto una vera e propria forma di protesta durissima? Si chiamava secessio plebis, la secessione. Quindi, voglio dire, applicata all'Italia di oggi fa venire in mente proprio uno dei classici temi che spacca, per così dire, no? Tra nord e sud, la Lega e così via. Però nella Roma repubblicana la secessio plebis c'era, avvenne diverse volte, il famoso Apollo, come Neno Agrippa, però lì c'era, e ai nostri tempi non c'è. Come mai? Allora, intanto è bene chiarire che quel tipo di secessione non ha niente a che vedere con la secessione moderna, perché quel tipo di secessione non aveva come obiettivo, come dire, una separazione territoriale, ecco, ma corrispondeva più a quello con cui noi oggi intendiamo lo sciopero generale, insomma, era uno spostamento fisico della plebe che caratterizzava, come dire, il blocco delle attività commerciali, oppure ad esempio l'interruzione dell'attività dei militari durante una guerra. Insomma, era più corrispondente a ciò con cui noi oggi moderni immaginiamo uno sciopero generale. Quel tipo di attività, almeno io ho cercato di chiarire nel mio libro, non è una disobbedienza, perché il mondo romano non era in grado di concepire realmente la disobbedienza, era una forma di protesta estrema, ma compatibile con il mantenimento di una struttura che con quella romana era gerarchicamente organizzata, quindi non partiva sul presupposto moderno che gli uomini, gli individui sono tutti naturalmente uguali, ma sono tutti naturalmente diseguali, e serviva in qualche modo a riequilibrare un disequilibrio nella distribuzione del potere, degli oneri e dei diritti interni alla società romana. La nostra realtà moderna ha conosciuto forme di disobbedienza o di protesta ancora più estreme. Insomma, appunto, voglio dire, la modernità nasce con fenomeni rivoluzionari che però mutano col passare del tempo e col passare dei secoli. Ciò che noi oggi intendiamo con disobbedienza civile è almeno da 30 anni che è in crisi, e non soltanto in Italia, perché era un modo di concepire il dissenso radicale che in qualche modo corrisponde a degli scenari che oggi tendono a non esserci più. Sostanzialmente, con l'avvento della globalizzazione, con la crisi cosiddetta degli stati nazionali, quella forma di protesta lì ha perso molte delle sue prerogative. Faccio un esempio concreto, insomma. Qui la fermo però, perché questa è la sua interpretazione finale, tipo, questa è la globalizzazione. La mia interpretazione è un'altra. Io sono, diciamo, un liberista, personalista classico, e quindi la mia idea è che è lo stato etico che si afferma all'inizio del Novecento, nelle sue diverse coloriture, quello che impedisce oggi di avere a portata di mano con efficacia forme di disobbedienza civile che consentano un way out, un exit a strati, ceti, oppure al di là delle attività economiche, degli interessi economici, a parti significative della popolazione che non si ritrovano in norme fondamentali di un ordinamento positivo che consenta di esprimere con tutta la durezza del caso, ma senza mettere a rischio un contesto istituzionale, quindi non stiamo parlando di violenza armata, di sfasciare le cose, stiamo parlando di un'altra cosa. La disobbedienza civile è una cosa che ha un fondamento etico e che deve essere prevista dagli ordinamenti avanzati. La mia idea è che questa roba, da che c'è l'idea hegeliana che si avvera nel Novecento che abbiamo alle spalle, nemmeno nelle democrazie come nostre post totalitarismi torna in voga, perché il potere politico pro tempore, io sono il public choice, quindi Buchanan contrabbanda i suoi interessi pro tempore per quelli della volontà generale, della democrazia realizzata. La democrazia è così realizzata che mica vorrete opporvi. Lei dice invece la globalizzazione. Allora, innanzitutto, questa sua immagine, ciò che lei ci ha descritto in questo momento come disobbedienza civile, costituisce, come dire, soltanto una delle modalità, certo, con cui la disobbedienza è stata pensata, non solo, diciamo così, nella storia della tradizione politica occidentale, ma anche nel Novecento. Insomma, l'idea che la disobbedienza civile sia in qualche modo un'alternativa alla rivoluzione, compatibile con gli ordinamenti liberal-democratici esistenti, è soltanto una modalità di pensare alla disobbedienza, che in realtà, come dire, è un modo per stabilire dei limiti all'esercizio della disobbedienza, in grado di cogliere, come dire, gli aspetti progressivi che ci possono essere in atti di disobbedienza. Pensiamo negli Stati Uniti al movimento per i diritti civili, Martin Luther King, insomma, per esempio, per intendere, certo, senza, come dire, mettere in discussione quella che Rawls definiva la società quasi giusta, cioè l'ordinamento, ad esempio, liberal-democratico. E che però sfidavano costituzioni di stati, ordinamenti de facto delle forze di sicurezza, l'FBI di Hoover, cioè sfidavano i fondamenti stessi, sì, appunto, ma non mettevano in crisi. Quello che voglio dire è che questa immagine che ci ha offerto Rawls della disobbedienza civile, questa immagine liberale della, sì, disobbedienza civile, non corrisponde neanche a ciò che il Movimento per i Diritti Civili ha praticato. Vero, insomma, vero, vero. Quindi, come dire, è un'immagine della disobbedienza civile che è stata presentata da chi, come dire, voleva in qualche modo contenere gli effetti, come dire, più radicali di quelle stesse pratiche politiche che oggi, a distanza di anni, ci sembrano un grande esempio di politiche democratiche e liberali. Il punto, io credo, piuttosto, sia il fatto che oggi, come dire, quel modo di concepire la disobbedienza, quella la Martin Luther King in sostanza, era un modo di concepire la disobbedienza fondata su un'idea dove c'era, come dire, un radicamento territoriale, il potere, insomma, c'era il palazzo d'inverno in sostanza, ecco, contro il quale confrontarsi. Allora si poteva fare o la rivoluzione e ci si scontrava frontalmente con il potere, oppure si cercavano forme di sottrazione da questo dalle maglie oppressive di questo potere, che era però fisicamente presente. E questo, diciamo, così veniva concepito. Questo oggi è il filone Toni Negri, per capirci, l'operaismo che diventa non più lotta di classe, ma diventa sottraiamoci ai doveri, sabotiamo la produzione, tanto un modello alternativa ci si arriverà solo così. Una cosa che dagli anni 60 in poi è parte della letteratura radicale di sinistra rivoluzionaria post scontro di classe, per così dire. Diciamo così che quella tradizione ha incrociato, come dire, almeno parzialmente alcune di queste modalità di concepire il dissenso radicale. Il punto è che però oggi, come dire, il potere è astratto. Insomma, non c'è più il palazzo d'inverno. Ho capito, però io capisco che questo... No, aspetti, io capisco che questo metta in più in crisi chi nel palazzo d'inverno vedeva la sua maniera radicale di sinistra di concepire la disobbedienza civile. Per me il problema non è affatto astratto. A me quello che colpisce è che in Italia nessuno pratichi, al di là di violenza verbale contro Befera, che non la merita, e la sua squadra, che ottengono risultati, nessuno mette mano da anni a forme di disobbedienza civile contro uno Stato che ha aumenta di 25 punti la pressione fiscale e in cambio, oltre a far stramazzare la crescita, non dà i servizi minimamente paragonabili a quelli dei paesi ad alta pressione fiscale. Allora, il problema è il centro di questa puntata. Perché intorno alla disobbedienza fiscale, al di là dell'evasione ciascuno per i fatti suoi, che è pura violazione di leggi, quindi in quanto tale non è disobbedienza civile, è semplicemente farsi i fatti propri sperando nell'impunità e nell'inefficienza dello Stato anche nell'accertare e reprimere quello che le sue stesse leggi, per me repressive fiscalmente, precostituiscono. Però com'è che nemmeno su questo in Italia si riesce a capire che c'è lì una frontiera di disobbedienza civile? Lei dice perché il Palazzo d'Inverno non c'è più, c'è il potere politico astratto. Su questa domanda l'ho interrotta, ma riprendiamo la sua risposta perché dobbiamo andare in pubblicità. Eccoci qua, l'avevo interrotta a proposito del Palazzo d'Inverno e il potere politico astratto come spiegazione del fatto che per questo ogni forma di disobbedienza civile, tanto dei radicali di una parte quanto dei radicali libertari, liberisti dall'altra, è sempre più difficile. Sì, allora, ritornando a quello che era il suo punto, insomma, lei parte dal presupposto che è sorprendente che di fronte ad una pressione fiscale come quella che abbiamo attualmente in Italia non vi siano forme di disobbedienza fiscale. Allora, innanzitutto, storicamente la disobbedienza fiscale è stata più annunciata che praticata, insomma, non soltanto in Italia. Per cui, non è una specificità di adesso, ma è un punto più ampio su cui magari si potrebbe valere la pena riflettere su perché la disobbedienza fiscale storicamente è stata annunciata ma mai realmente praticata come fenomeno di massa, indipendentemente dalla valutazione che possiamo fare nel caso specifico sulla pressione fiscale adesso in Italia. Però voglio dire, è stata annunciata, ma annunciata così radicalmente che qualche re ci ha rimesso la testa, da Carlo I, qualche impero ci ha rimesso le colonie, sono nati gli Stati Uniti come i Boston Tea Party, e ancora oggi le elezioni americane i repubblicani rischiano di perdere perché i Tea Party dal basso sulle politiche fiscali sono così radicali che rendono impossibile al partito scegliere un moderato centrista. Quindi voglio dire, sì, però, annunciata quelli, ma però cambiano le strutture. Però in quel caso lì si costruivano dei movimenti di piazza dove l'elemento del non pagamento delle tasse erano avevano una valenza simbolica e non era una pratica politica esercitata di massa, quello era uno slogan che serviva a mobilitare un movimento. Ho capito, però fa nascere paesi e cambia la constituency politica fiscale. Ci mancherebbe altro, da questo punto di vista sì, però allora mettiamo in ordine le cose. La disobbedienza fiscale, se è uno slogan di mobilitazione per costruire delle mobilitazioni di massa, e allora è un discorso, ma come misura di disobbedienza civile paragonabile ad esempio al boicottaggio dei bus che veniva fatto dal Movimento per i diritti civili di Martin Luther King, questa è una pratica che difficilmente abbiamo visto verificarsi nel corso della storia. Detto questo, oggi abbiamo sempre nell'ambito degli slogan di mobilitazione anche delle altre forme di disobbedienza che in qualche modo attingono al problema della fiscalità o delle tasse, che per esempio nei contesti dei movimenti di precari si sviluppa in questi anni, si sta sviluppando recentemente il cosiddetto slogan del diritto all'insolvenza. Quindi, l'idea che le generazioni di precari, di giovani che sono costretti per vivere, per poter mantenere un tenore di vita che è quello nostro, degli stili di vita occidentali, sono costretti ad un indebitamento che molte volte risulta difficile poter sostenere, e alcuni di questi movimenti rivendicano il diritto al non pagamento di queste di questo debito. Insomma, in realtà abbiamo molte cose che si muovono sotto molti punti di vista e sotto molte coloriture politiche. La realtà di oggi è molto più dinamica di quello che non si immagini. Quello che a mio avviso è il problema, indipendentemente dalle posizioni politiche che si hanno, la mia penso si sarà già capito, è abbastanza diverso dalla sì sì, ma io apposta ho scelto sua, lei come sempre apposta ho scelto lei, perché secondo me il problema è trasversale, universale, esatto. È un problema di fondo, allora, non è un problema il di... problema è che noi manchiamo oggi di quella che potremmo definire una scienza politica capace di pensare le trasformazioni del presente. Allora, le faccio un esempio. I cosiddetti mercati finanziari oggi sono in grado di esercitare un potere destituente molto più forte, molto più efficace. Non c'è dubbio. Ha ragione. Di quello, diciamo così, dei movimenti di cittadinanza. Non c'è la caduta del governo Berlusconi, indipendentemente dal giudizio che si No, ma le elezioni in Spagna e così via. Il governo, insomma, che la minaccia del default che si aggira per l'Europa è la minaccia dell'esercizio di una sottrazione del consenso dei mercati finanziari attraverso appunto le misure di tipo economico-finanziario. Ecco, i movimenti di cittadinanza mancano oggi di, strumenti organizzativi, di forme di azione che siano in grado di avere la stessa forza, la stessa efficacia che hanno oggi, ad esempio. Allora, io provo. Dei mercati finanziari. Sono tanto d'accordo. Secondo me è più questo. Aspetti. Si rassegni che c'è un conduttore. Prego. Il problema è, da questo punto, che io condivido integralmente, credo anzi che il potere destituente dei mercati, siamo arrivati a quello, anche per quello i tedeschi lo hanno sostituito a quello dell'Ecofin, perché l'Ecofin, quello politico discrezionale, non funzionava abbastanza efficacemente, quello politico era troppo discrezionale. Ci siamo arrivati proprio perché, secondo me, il nostro problema è che ci siamo costruiti ordinamenti pubblici nei quali lo Stato ha sempre ragione, quindi la minoranza politica pro tempore organizzata che ha vinto le elezioni, io non ne contesto la legittimità delle elezioni, ma la democrazia non sono le elezioni, come ai tempi di Pericle, che era molto furbastro, per così dire, molto abile, governava l'assemblea, ma come ci dice Tucci poi era il princeps, perché poi alla fine la democrazia esercitata solo nel voto a me convince poco, a dire la verità. Siamo arrivati al potere studente dei mercati perché gli ordinamenti dicono chi esercita, avendo vinto le elezioni, il potere di fatto è praticamente inamovibile. Allora, questo punto riguarda tanto chi ha idee radicali antimercato, per così dire, quanto chi invece, come me, sposa i mercati e sposa la persona. Mi ha colpito ieri la lettura del supplemento della lettura del Corriere della Sera, giornale battistero del governo Monti, il giornale per definizione della storia italiana, della borghesia italiana e così via, che aveva le due prime pagine d'apertura del suo supplemento dedicato alla lettura con un articolo di Ingo Schulz tedesco, La mia Germania post-democratica, che dice: il capitalismo non ha bisogno di democrazia, ma di condizioni stabili, quindi strutture democratiche funzionanti possono agire solo come forza contraria al capitalismo. Questo era l'articolo di apertura, ne scelgo una frase, però chi conosce Ingo Schulz sa che ho scelto una frase che rappresenta il suo pensiero di fondo. Dopodiché il suo secondo articolo era quello dedicato alla Spagna di Arturo Pérez Reverte, e Arturo Pérez Reverte dà un giudizio della Spagna, tanto della Spagna governata dal governo guida socialista che ha passato la mano, tanto a maggior ragione della Spagna di Mariano Rajoy, che ha vinto col PP le elezioni adesso, di questo tipo. Vi leggo anche qui una sola frase: un paese popolato da un gregge analfabeta sottomesso di muratori, puttane e camerieri, dove gli unici che davvero stroveranno bene, a parte i mascalzoni amici dei politici, saranno i pensionati stranieri, i mafiosi nazionali ed importazione e gli hooligan che viaggiano con pacchetto vacanze da 25 euro per 3 notti d'albergo, sbronza e vomito inclusi. Ecco, questa è ciò che propone il Corriere della Sera come strumento di lettura della crisi tedesca ed europea e spagnola, e leggendo articoli di questa durezza e violenza su il giornale della borghesia italiana che ha nominato, istituito, pensato, promosso, non voglio esagerare, il governo di emergenza guidato dal professor Monti, io mi gratto la testa perché vedo un mismatch pazzesco tra una realtà in cui tutti protestano oramai, dall'altra in cui minoranze pro tempore, addirittura emergenziali, esercitano poi tutti i poteri di un ordinamento per il quale chi in questi anni si è proposto forme di disobbedienza civile, è capitato, ne abbiamo parlato più volte, qualche esempio di imprenditore nel nord-est in Friuli che per esempio ha iniziato a dire: non pago il sostituto di imposta, mi autodichiaro, però io ai miei lavoratori darò tutto il lordo e dopodiché se la vedranno loro, rifiuto di fare il sostituto di imposta in nome e per conto dello Stato, siccome abbiamo un ordinamento la cui giurisprudenza di Corte di Cassazione e Corte Costituzionale considera eversivo e sedizioso una atteggiamento di questo tipo dichiarato, pubblicamente dichiarato, come pretende la disobbedienza civile, che non è farsi fatti propri, fare l'evasione fiscale, ogni volta colpito durissimamente chi ha creduto di esercitare in questo un diritto estremo di appello a diritti naturali che sono, per me, vengono prima di quelli del diritto naturale. Allora la mia domanda, ora che dobbiamo andare all'informazione sulla circolazione stradale, quando rientriamo in studio sentiamo qualche telefonata e concludiamo poi con Laudani, per vedere se non ci si può mettere d'accordo, se i liberali da una parte, poi pochi, mosche bianche liberali dall'altra, i tanti incazzati di sinistra radicale, non dovrebbero pensare invece solo a litigare sulla legge elettorale, a pensare anche a cambiare da dentro questa roba. Io voglio un giudice della libertà che consenta forme di disobbedienza civile, perché, ripeto, la democrazia non può basarsi solo su un voto ogni 5 anni, ha bisogno, quando ci sono dissensi così radicali intorno a cos'è lo Stato, per me uno Stato che mi piglia quello che mi piglia in cambio di quello che mi dà è una banda di briganti, e io se devo andare in carcere, perché ripeterò tante volte questa cosa, penso che prima che andare in carcere per chiacchiere voglio provare a organizzare qualche cosa che pubblicamente ponga la questione del diritto del limite naturale alla pressione fiscale, come il giudice costituzionale tedesco, dopo tanti anni di protesta di gente che la pensava come me, ha riconosciuto in quel paese. Se lo ha riconosciuto in Germania, che non è certo un paese di darwinismo economico anglosassone, non vedo perché non anche in Italia. E lo stesso io voglio riconoscere a chi la pensa, come leggo su i supplementi del Corriere della Sera, dell'area radicale, che però altrimenti mi sembra furbo pubblicare sul Corriere della Sera che li pubblica e all'apertura dei suoi supplementi, mentre dall'altra parte sostiene i poteri emergenziali dei tecnici, perché o l'una o l'altra, entrambe mi sembra un po' la furberia di Pericle, appunto, che sì, tutti ricordiamo nella storia, ma di cui dobbiamo ricordare poi il giudizio. Tucidideo era uno che assecondava le assemblee, perché alla fine comandava lui, per 30 anni stratego. Sapete perché era per 30 anni seguito stratego? Perché alla fine, essendo rieletto ogni volta, lui non doveva mai dare il rendiconto che era previsto alla fine della carica annuale. E cioè, la politica ha un po' sempre gli stessi difetti, e siccome li conosciamo, li leggiamo, li abbiamo studiati, tentiamo di ricordarceli. Eccoci qua, mentre torniamo con i Doors di End, sentiamo un po' di telefonate su questo tema di disobbedienza civile, messaggi sms tanti, vediamo le telefonate un po' che pensano. Raffaele da Salerno, prego Raffaele. Buongiorno dottor Giannini, io credo che la disobbedienza civile potrebbe funzionare con la dittatura imperiale di Stato, ma non credo che non funzionerà mai contro la dittatura bancaria che siamo attualmente. Proviamo per esempio una forma di diversa natura, come un sistema non profit, come l'acquisizione del debito pubblico, per esempio dando a noi, a tutti quanti, l'1% dall'ultimo dei pensionati al Presidente della Repubblica, tutti i miliardari, l'1%. Ho capito, lei dice solo con minando dall'interno, riconoscendo che il sistema di mercato capitalistico delle oligarchie non funziona, non può funzionare, che noi possiamo dare risposta alla domanda che io ho posto, e affronterebbe su questo anche il debito pubblico. Domani penso che faremo una puntata su che cos'è il debito pubblico, e per questo la pensiamo tanto diversamente. Al di là di quanto è, la domanda da affrontare è che cos'è il debito pubblico, ma ne parleremo domani. Marco da Milano, prego Marco. Sì, buongiorno Giannino. Senta, io sono molto d'accordo con aver riportato la disobbedienza civile nel dibattito, però io vorrei distinguere, oggi l'ha fatto lei in parte, negli giorni precedenti un po' meno, la differenza tra i farsi fatti propri, quello non è disobbedienza civile, ritornando all'esempio di Cortina, quello è, se vogliamo, anche addirittura possiamo chiamarlo uno sputtanamento della sua nobile posizione, perché quelli perseguivano direttamente il loro interesse, mentre invece la disobbedienza civile dovrebbe essere, come ha ricordato oggi anche lei, anche la disposizione ad andare in carcere. Sì, sì, sì. No, ma questo, guardi, lei non troverà mai da parte mia una sola parola di difensione di difesa dell'evasione. Io troverà sempre da me, come nei giorni scorsi, e mi duole e mi incazzo quando, come lei, mi si fa notare che è la stessa cosa, noterà una durissima condanna del fatto che se ci occupiamo solo dell'evasione, questa è la maniera ipnotica per farci dimenticare l'aumento della spesa e del prelievo condotto da destra e da sinistra. Questo non c'entra niente con la difesa dell'evasione, io su questo sono trasparente, ma capisco che nel dibattito italiano curva sud curva nord non partire dal presupposto che innanzitutto l'evasione fiscale, come ha fatto anche i Rimonti, io sono in totale dissenso dalla posizione usata dal professor Monti in questi giorni, che è la totale difesa del livello di prelievo e di spesa italiana. Rispetto a questa emergenza voglio un governo che non mi dica devo studiare e fare la spending review. Tutti sappiamo dov'è il moltiplicarsi di spesa che non è a tutela di chi ha meno, che non è per gli ammortizzatori sociali che ci mancano. Tutti sappiamo leggere se abbiamo studiato, non c'è bisogno di perdere altro tempo. Chi fa come Monti ieri difende il livello di spesa in crescita ulteriore anche con le sue manovre e la pressione fiscale che lo insegue. E io su questo sono in totale dissenso, ma questo lo dico perché vorrei essere rispettoso anche di chi pensa che io abbia mai difeso gli evasori fiscali. Non mi è mai capitato nella vita, pago fino all'ultimo euro, ma non ne posso più di vedere governi di destra, di sinistra e tecnici che difendono il livello di spesa e concorrono ad aumentarlo invece di tagliarlo. Questo è il punto, perché altrimenti noi arriveremo a livelli di asintotici, inerziali di spesa, di fronte ai quali avrà sempre più ragione chi, il radicale, dal suo punto di vista, diverso dal mio, dirà che è il sistema che non regge più, perché è ovvio e hanno ragione loro a questo punto. Stefano da Roma, prego Stefano. Buongiorno Giannino, complimenti per la trasmissione. Io penso che quest'anno sarò uno dei primi, diciamo, delle prime persone che verrà arrestato proprio perché non voglio pagare le tasse. Sì, farò proprio questo, perché a questo punto penso che sia arrivato il momento. Io sono un artigiano, sono un tassista di Roma, ma sono comunque un artigiano che è assoggettato a una minimum tax, e questa minimum tax è stata concepita quando non c'era la recessione, e adesso devo seguitare a pagare questa tassa come artigiano. E faccio presente che io pago come paga un ristorante di Cortina, perché la minimum tax l'artigiano, il negozio, il ristorante di Cortina è un artigiano come me, quindi io pago la stessa minimum tax. Stefano, le dico solo che capisco, ma attenzione, perché la via individuale a non pagarle non è quello di cui stiamo parlando oggi. Poi se invece c'è un movimento che nasce in cui ci si autodichiara è diverso, perché allora si entra, come diceva il professor Laudani, in una dimensione nella quale diventa strumento di un'agenda politica, che è una cosa diversa. Però quegli strumenti, quando sono stati perseguiti con durezza, hanno cambiato la storia. Lorenzo da Venezia, l'ultima chiamata breve perché poi torniamo da Laudani. Lorenzo, prego. Buongiorno e buongiorno dottor Giannino e complimenti. Dunque, purtroppo ho paura che per la disobbedienza civile in campo fiscale sia troppo tardi, perché siamo già in uno stato di polizia. Cioè, anche se dicessimo non paghiamo qualcosa, anche se lo dichiariamo, le cartelle arrivano implacabili e arriva la finanza con le armi, tra l'altro, no? Ormai c'è l'inversione dell'ordine della prova, di tutto di più, quindi siamo già in uno stato di polizia. Quelle piccole cose che si potevano fare, per esempio non firmare la consapevolezza che comunque prevale l'accertamento induttivo rispetto a una contabilità regolare che c'era sulla dichiarazione dei redditi, non l'ho mai firmato, ma queste sono piccole cose. Purtroppo chi poteva fare qualcosa erano le associazioni di categoria, che non hanno fatto mai niente. Il buon Bortolussi si va in giro a fare il bello, però lui ha firmato l'istituto di settore, una clamorosa inversione dell'onere della prova. Lorenzo, si preoccupa solo di fare la sua carriera politica. Vede che lei punta però Bortolussi l'hanno usato solo per politica quando erano certi di perdere. Il problema è che però le associazioni di impresa su questo hanno delle responsabilità durissime, pesantissime. Io sono d'accordo con lei. E non lo hanno fatto perché pensano al solito ragionamento, e se poi lo facciamo i nostri iscritti ci dicono che si scatenano i controlli. E io dico sempre, se si scatenano i controlli beccheranno chi non paga per i fatti loro. Cosa diversa è chiedere invece pubblicamente uno stop a questo tipo di politica, per concentrare le risorse esattamente dove servono. L'Italia non le ha. Comunque, grazie anche a Lorenzo. Professor Laudani, non è che per caso su strumenti che contemplino nuove forme di disobbedienza civile ci dobbiamo mettere d'accordo sul diritto, rappresentanti e pensatori di tutte le tendenze? Perché altrimenti, sa, le proposte di legge popolari non vanno da nessuna parte, non so come dire. Allora, provo a fare una sintesi un po' dei suoi ultimi spunti e di quelli degli ascoltatori. Allora, la dico così, in modo un po' provocatorio: ciò che lei chiede, cioè in qualche modo il riconoscimento di un diritto all'esercizio della disobbedienza civile, è impossibile. Cioè, lei chiede agli ordinamenti giuridici costituzionali l'impossibile. Lei sa che questa era, come dire, la tesi in qualche modo di Rawls, riconoscere la natura costituzionale dell'esercizio della disobbedienza civile. Questo è, in un'ottica di stato di diritto moderno. E ci rassegniamo? No, il punto è che non bisogna chiedere il riconoscimento giuridico alla disobbedienza, ma bisogna praticarla assumendosi rischi. Ok, allora su questa conclusione è finito il tempo. Io ringrazio il professor Laudani. Liberali, bisogna farlo, avete capito, ce lo dicono anche i radicali dall'altra parte. Appuntamento a domani, Linea Generale Radio.